finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Bene, mercoledì 29 di gennaio, siamo alla fine anche di questo 2021. Poco fa avete sentito Kento che ci raccomandava di prendere, di accattarsi la Scarcerando 2021, ovviamente è lo spot di Scarcerando dello scorso anno. Ma siccome ci piace molto, insomma, e ringraziamo ancora Kento. Per questo piccolo omaggio che ci ha fatto, ovviamente basta cambiare 2021 a 2022 e la Scarcerando esce ogni anno. E alziamo anche un po' il microfono per avere, probabilmente per provare ad avere una qualità del suono più importante, più attinente. Allora, puntata da remoto, dicevamo, in quanto così, di tanto in tanto, saltuariamente. Un po' ci piace farlo, un po' è l'unica maniera per poter trasmettere in certe circostanze. Ci tenevamo a farlo per l'ultima dell'anno, abbiamo comunque provato a fare in maniera di ritagliare il tempo per poterla fare da studio, non ci siamo riusciti, perciò ripiegato così su una puntata che inizia un po' in ritardo. Ovviamente questa è la sigla di 25 O'Clock, ovviamente. Vi diamo appuntamento il 31 dicembre a Re Bibbia, auto carcere, presidio sotto Re Bibbia, 31 dicembre 2021 dalle ore 10:30. Via Maglietti, angolo via Bartolongo. E anche quest'anno ci rammentiamo del marzo di ormai quasi due anni fa, quando in diverse carceri d'Italia morirono, persero la vita 15 persone a seguito delle rivolte che si tennero, appunto per il panico che si generò nelle carceri, perché appunto nessuno sapeva, in realtà nessuno conosceva quello che sarebbe stata poi quello che è successo col Covid-19. Certo è che la richiesta dei detenuti di svuotare le carceri, di concedere dei larghi, delle larghe misure alternative al carcere che potessero permettere appunto alle persone detenute di poter fare, diciamo, come facevano tutti gli altri, insomma, semplicemente il famoso lockdown. Invece si continuava a stare nelle carceri sovraffollate, questo appunto a discapito di un contagio che difatti avvenne anche nelle carceri. Ebbene, tutto questo è bene ricordarlo nel democraticissimo nostro paese, quello che vanta, che così fa le pulci a tanti altri posti nel mondo perché sono antidemocratici, ecco. i detenuti rimasero nelle carceri e il Covid dilagò. E soprattutto 15 persone morirono a seguito delle rivolte e quindi della repressione carceraria. Noi saremo il 31 sotto le bibbie per continuare a gridare tutto questo, ma anche per gridare comunque a chi è detenuto e detenuti. Il nostro odio per quelle mura, per quelle galere, la vicinanza alle persone recluse. E quindi appuntamento a tutti e a tutte, ci saremo noi come radio, ci saranno tante altre realtà di Roma anticarcerarie. E un po' di carcere parleremo noi in questa puntata, così parleremo, faremo suonare non i dischi ma così i file. 6880401, numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale 2001, 00185 via dei Volsci 56, Roma San Lollo, 06491750, recapito telefonico. E poi Blood 77 li rimandiamo, dicevamo. Onda Rossa, @ondarossa.info per le vostre comunicazioni via mail. Poi ci stanno tutti i social che tanto vi piacciono, a noi un po' di meno, per comunicare con noi, quindi Telegram, Twitter, Facebook, tutto quello che vi pare. Li conoscete molto meglio di noi. Salutiamo chi si appropinqua dopo la fine della rivoluzione. Sì, perché c'era una rivoluzione che andava sui piccoli schermi, era quella di Matrix. Perché mo se stanno a spingere Matrix perché esce l'altro Colos. Comunque, insomma, avessimo messo in pratica 1% di quello che così la serie preconizzava, adesso staremo a vedere questo ultimo Resurrection addirittura. Va bene, dai, Blood 77 da capo, www.ondarossa.info, dicevamo, il sito della radio, e dove troverete il modo per sottoscrivere i podcast, tutte le comunicazioni importanti, insomma. Da capo 666 da Rock the Santin Ray, Rock the Santin Rins. Di cui il grande Simone è Simone Lucciolo, ovviamente, voce del Blood 77, è uno dei fautori responsabili da capo, e non poteva essere altrimenti. Radio Onda Rossa 25 o'clock. The flesh, or another beer to pass your brain. Allora, dicevamo, questi erano Ciclone, Fuga fuori Roma. Esattamente la 14esima traccia per... No, la metà, la 7ª traccia. The Rock des Ancient Ruins. È un'occasione per farvi sentire quello che è un vinile in realtà, ma da remoto non abbiamo questa possibilità, per cui beccate il file freddo sterile, ma pur sempre file. Poi freddo sterile si fa per dire, perché insomma la musica è quella, è potente. 25 o'clock, ultima dell'anno, ancora Rock des Ancient Ruins. E questo è Ferox, Vado fuori. Bel punk romano, dai. Piacere comunque di averci i vinili qua davanti, dai. È una rarità persino negli studi della radio. Onda rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Il nostro invito alla sottoscrizione, il nostro invito all'acquisizione, all'acquisto della scarceranda per ogni agenda acquistata, una entra in carcere, quindi comunicateci il nome della persona detenuta cui volete far recapitare la scarceranda e provvederemo. Non siamo riusciti ad incastrarlo in una iniziativa che facemmo alla SNIA qualche tempo fa per quanto riguarda Freddie Williams, avrebbe potuto o dovuto insomma suonare con i Brutoni Nude Baby, poi non se ne è sentito all'ultimo momento, quindi in versione vinile 45 giri, 4 pezzi. Destroy Your Music, Fred Williams e Plutonium Baby, e questa invece è Climate of Fear. Ma no, sveltissimi proprio, quindi da capo. Vinile rosa per chi non lo abbia visto, piccolino. Coi Plutonium Baby in copertina. È più un uomo mascherato, un supereroe con la busta del pane e gli occhi bucati in testa, insomma, Freddie Williams. Da capo quindi Climate of Fear, Plutonium Baby, Freddie Williams, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Oggi invece non stiamo zitti, vi abbiamo abituato nelle puntate precedenti a non interrompere col nostro blaterio o col nostro blaterare il fluire delle scalette questa volta. Siamo tornati. Potremmo fare come bombarli e morire. Al classico mix microfono track. Prendere un fucile. Dalla Sardegna. E questo è in tema, infatti si tratta di uno split, di un album del 2014, di una raccolta, scusate. Il termine giusto è la raccolta, che del 2014 si chiama Adios Prisons. O Addio Prisons, non sappiamo la pronuncia esatta, si dovrebbe trattare di... Lingua ispanica, quindi cerca la cura a capo a Radio Nota Rossa 25 o'clock, dai. Sentar boh, ci è venuto il dubbio di non aver presentato Uprising Political Loose, sempre da Dio's Prisons. Scusa, si è sporcato un po'. Una puta sola. Han Solo. Murdered by the Hats. Sempre da Dio's Prison, grande, baccano. E nel frattempo è... nel frattempo è pronto dallo split del 2008 Naze VS Against Charlie o Versus, meglio ancora, split CD prigione di nulla, Nate, dalla Tuscia. Un saluto a Capo e agli altri, Nate. Onda Rossa 25 o'clock. I'm siccome ci viene il dubbio se avete sentito o no le nostre parole, insomma, per quanto possano essere necessarie, ci ripetiamo, insomma, ci siamo, è attinente se non altro per il periodo dell'anno. Fra non molto la lugubre rappresentazione di quei fatti verrà celebrata nuovamente. E quindi tear me down ancora dalla doccia. Il loro ultimo lavoro Solchi, che mette insieme un po' di lavoro del 2021, che mette appunto in sequenza dal 1996 al 2004 nel grande albero, nei cerchi dell'albero che rappresentano un po' questi anni, tutte le varie fasi dei Tear Me Down. E questo appunto è 10-100.000 a Calarenzio. E siamo arrivati. Sì, perché insomma ci tenevamo, era un po' di tempo che non li mandavamo più. Donna Grigia, Fiat Geppi Barnius e The Candy Mountains Boys. Ovviamente Light the Bob, il loro lavoro 3 del 2013, che si chiamava Super Mats Big Fuff. Un fine anno col botto, insomma, dai. Onda Rossa 25 o'clock. 20 minuti dopo la mezzanotte daremo modo per dirvi che siamo super in diretta. E vi aspettiamo tutti e tutte sotto le bibbie il 31 dalle 10.30 per l'annuale saluto ai detenuti e alle detenute, soprattutto alle detenute, perché poi si va sempre sotto al femminile. Light e Bob. 135% autoproduzione, Light the Bob. Indovinate un po' il colore della pasticca. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.

arrivata in ogni sua volontà, Cenerentola si sedette sull'ultimo gradino in basso della scalinata che ormai da anni, intorno a mezzanotte, around midnight, scendeva a precipizio, inseguita a breve dal principe. Verità amara. La favola di tutte le favole, la quintessenza dell'amore che aveva affascinato e fatto piangere e reso in fondo il mondo più accettabile, superando ormai l'inganno stesso della sua improbabilità, ripeteva quell'orrido rito con questa ennesima replica. Quello che tutti avevano ritenuto un atto irripetibile e proprio per questo testimonianza dell'amore perfetto trascinava la sua ripetizione come un amorazzo televisivo. Cenerentola avrebbe voluto da tempo gridare il suo sdegno, ma il pubblico delle curve e dalle tribune pretendeva con ferocia la storia, quella storia. E non avvertì nemmeno la disperazione nella voce di Cenerentola quando una sera disse: non è vero niente, non c'è nessun amore, l'amore non è fatto di pietà, in tutto ciò non c'è nessuna fantasia. Niente da fare, il pubblico di rimando voleva capire solo quello che voleva capire e rispose: è vero, hai ragione cara, il tuo è l'amore perfetto, il tuo è la più bella certezza, e come se lo è. Provò col tempo ad accettare quella crudeltà, quel voler credere da parte del pubblico pagante che quella storia fosse vera. Ogni volta, tutte le volte, round midnight. E quindi, con la milza negli occhi e il fiato mozzo, saltava sulla carrozza zucca che, perdendo i pezzi, svaniva nella notte, trascinata dai topi cavallo a cui ormai la trasformazione riusciva a malapena. Con le cosce allargate un po' grosse che debordavano dall'elastico delle calze, alla sua età ormai in quella posizione non c'era più niente di sensuale, ma molto di grottesco. Ma a lei non importava niente di niente, né dell'immagine o del nome, né di quello che il giorno successivo avrebbero scritto i giornali. Stava lì, con la salivazione biancastra all'angolo della bocca, incapace di fermare l'ansimare del suo respiro, e quello stronzo di principe, sì, proprio uno stronzo, pensò lei, che neanche si avvicinava per mantenere la distanza contrattuale. Cenerentola si rese conto in quel momento che il principe non le era mai piaciuto. Lei un principe non lo aveva mai voluto, mai desiderato. E poi quello con quell'incarnato livido. Ma un principe poteva essere azzurro, e quello lo era davvero, e anche un po' metallizzato. I piedi di Cenerentola poi si erano sformati. Avevano sia il sinistro che il destro, quelle che si chiamano patate, e che durante la corsa la torturavano inesorabilmente. Ma sì, basta, basta con quegli abiti froscianti e consunti, ormai quanto gli stracci che indossava la sera della prima, trasformati dalla fata. Basta con la paura del tornare a casa dalla matrigna e dalle sorellastre, basta con lo sfruttamento del pulire, lavare, cucinare. Si accorse di odiare quella storia così piena di violenta illusione. Lei si era innamorata di un vampiro un tempo, capite? Un vampiro. Non l'aveva detto a nessuno. Più o meno stesso orario, round midnight, ma ben altra ambientazione. Ma il pubblico non avrebbe gradito, capito? Capito? Ma quando mai? Sentì quell'urlo schiaffeggiarle nuovamente le orecchie. Cenerentola, facci sognare ancora! Già, sognare ancora. Però per sognare devi metterci coraggio la pelle e le palle per costruirlo il sogno, il fiato per prepararti a viverlo. Allora Cenerentola si alzò in piedi, raccolse tutta la sua dignità, si rassettò il vestito, salì di nuovo in cima alla scala come una regina, poiché tutti l'audissero, e cominciò. La fantasia è sintesi della bellezza, è applicazione, è sovvertimento di regole, è una vertigine abissale. E voi non siete che fruitori, sfruttate, copiate, vi adeguate, approfittate, non uscite allo scoperto. Voi non avete sogni, voi imitate l'amore, non lo create, non lo avrete mai, non mi avrete mai. E ora andate, andate tutti a fare in culo. Ci fu un secolo secondo di sospensione, poi tutti, quasi per miracolo, si inginocchiarono davanti a quella Madonna laica che con quella frase aveva dato una mano anche a quella vera, che a 14 anni, non certo per sua volontà, si era accollata una storia mica da ridere. Cenerentola si voltò, alzò le braccia al cielo, fece una grande scorreggia e, sorridendo, morì. Era around midnight o poco più, ma poco importa. Io sono Imola, scimmia capobranco. Un primate, che vuol dire che c'ero prima, prima di te, di tutti gli altri uomini. Anch'io ho avuto la possibilità di diventare uomo, ma ho deciso con gli altri del mio branco di rimanere scimmia, di essere una scimmia. Io sono Imola, questo so e questo ti tramando. Prima di te ho scoperto l'acqua, le maree, la fisica quantistica e la fionda, la relatività e l'istinto che tu chiamerai anima, la meraviglia che tu chiamerai amore, l'odore del sesso che non chiamerai perché ti confonde. Ma soprattutto prima di te ho scoperto il sogno, sogno, sogno, quella gioia dolente che non ha rumore ma ti pervade e ti fa mo, tu, re, spinta propellente che ti fa futuro. Ecco, io e Imola, questo so e questo ti tramando. Al contrario di voi, noi scimmie sogniamo meglio di giorno, perché la luce del sole non inganna e il progetto ci è più chiaro. E allora ci mettiamo in fila sullo stesso ramo per avere un'idea di partenza uguale. E da qui guardiamo la grande distesa d'acqua da cui veniamo tutti, e il moto delle onde che lubrifica la nostra genialità. Noi abbiamo trovato una notte, seguendo l'odore nella pancia della terra, una cosa che abbiamo chiamato la strada delle stelle. Sì, perché è qui che vengono a nascondersi le stelle, spaventate dalla vastità del cielo. E allora noi le riprendiamo, pezzo per pezzo, e le riconsegniamo al cielo con la nostra fionda. Siamo nudi, ricoperti di peli, ma abbiamo la luminosità dei desideri. Per questo restituiamo al cielo le stelle, anche se non tutte ritrovano il loro posto. Anzi, capita talvolta che qualcuna si scontri con un'altra, e allora con una velocità suprema tutte cambiano di posto, ma voi non ve ne accorgerete. Io e Imola, scimmia capobranco, questo so e questo ti tramando. Ed è così che qualche notte in estate, ma anche d'inverno, vi di pezzi di stelle o di stelle intere che scappano dal cielo per andare a nascondersi sotto queste montagne e diventare roccia bianca e iridescente, la strada delle stelle. E io amo la scimmia prima del gambo blanco, questo so e questo ti tramando. Io amo la scimmia capo branco, questo so, questo so, questo ti tramando. E come ci dispiace. Sì, a sentire queste parole, queste note dopo che insomma ci siamo lasciati andare come al solito. Ci santi martiri, cazzo ci faccio qui. Dopo l'incipit, la trasmissione parlata, lo scopriranno che non sono di qui. Con l'hardcore, con il grind. Chilometri. E poi insomma un po' di vibrazioni, di emozione. E poi appunto Francesco Di Giacomo scomparso, e lo diciamo prematuramente perché molto avrebbe potuto dare in un incidente. Il 21 febbraio del 2014 abbiamo ascoltato Cenerentola ed Emulla Francesco Di Giacomo dall'ultimo lavoro uscito da poco tempo, che si chiama La parte mancante, che un po' rende l'idea lavoro postumo, con queste sue registrazioni casalinghe fatte con fatte, rifatte, risuonate, insomma vabbè, la storia del disco ve la racconteremo, avremo modo di raccontarvela meglio. Nel frattempo, dopo Francesco Di Giacomo vanno le note di Pat e lo mandiamo da capo, il 5 di vi facciamo questa Befana. Pat farà un così una trasferta a Roma e un paio di interviste previste per quel giorno, fra cui quella a 25 o'clock alla radio. Adesso non sappiamo esattamente, concorderemo con lui se riusciremo magari a farla alle 8 e poi alle 22.30 al solito 25 o'clock, oppure se andrà proprio in onda durante 25 o'clock. Vediamo come organizzeremo. Questa notte sul 23 ve la mandiamo da capo e poi di seguito sempre Pat. Ci santi e martiri, cazzo ci faccio qui. Forse è meglio non muoversi, lo scopriranno che non sono di qui. Lontano chilometri, chilometri, chilometri. E salto su un autobus a caso, basta che vada lontano anch'io. Fa partire sta carretta dritta verso la notte. L'autista è sempre in ritardo, dici. Dovrebbero massacrarlo, dici. Io sto sanguinando dalle radici. Notte sul 23. Notte sul 23. Notte sul 23. Porta a San Paolo, sì, sound e nottambuli, carico al limone G, al bar della Metro B, a star della Metro B. E abbandonato la festa, ti schiappo privi, che t'ho visto entrare con un altro privi, io sto delirando ancora privi, notte su 23, notte su 23, notte su 23. Oh sì, sì, dai ancora, notte su 23, notte su 23, notte su 23. Oh sì, sì, dai, che piacere. Questo è il primo singolo tratto da Mono Stereo, lavoro del 2021 per quanto riguarda Pat, uscito proprio a fine novembre del 2021. Questo è il primo singolo, Holland e Dozier, e dopo Le luci della città. Sopravvivo a questa, ma te, posso regnare sul mondo, ma te, paga sto giro di una scusa. Portami via, bella mia, che posso dire? Io non ho svolto per te, ma so suonare io la melodia, anche tutta la notte solo per te. I ragazzi andavano in prima, lei faceva un muro tra suo padre e l'eroina, e diceva non potete fermarmi, ma farmi perdere il treno. Con la radio accesa nel letto, che non avrebbe dormito lo stesso. She ran away from home, sempre la stessa canzone, la stessa stazione, lo stesso odore. Ascoltami, bella mia, che posso dire? Io non ho svolto per te, ma so suonare online and dance, anche tutta la notte solo per, anche tutta la notte solo per. Cielo a raccontare chi siamo ed è una fregatura, anzi, anzi, è un assalto alla luna, è un assalto alla luna, è un assalto alla luna, è un assalto alla luna, è un assalto alla luna, è un assalto alla luna, è un assalto alla luna.

avete quelle zampette? Agitate il culone o il culetto. Abbiamo scoperto che non abbiamo detto nulla. E perciò ve lo ripetiamo, accidenti. Allora, dicevamo, la programmazione della radio finisce qui. Si riprende domattina con la rassegna stampa, le letture per i pagine dei giornali, rassegna stampa cittadine, redazione della mattina 10.12.30, alle 14 tutta scena musica. Alle 16 altre Attica Blues oltre alla Black Music, alle 17 la Schiena del Sol fino alle 19.30, poi alle 20.15 dopo la Rasa, la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa, posta sia alle 22 a chiudere la programmazione del giovedì. Il nostro saluto più importante va a tutte le persone detenute, a tutti e tutti coloro costretti a condizioni di limitate libertà personale, clandestinità, arresti domiciliari, decreti amministrativi, centri di detenzione per migranti. Saremo comunque sotto le Bibbie al 31, dicevamo, per dimostrare la nostra vicinanza fisicamente alle persone detenute e anche per farci gli auguri insieme a loro di un prossimo splendido 2022 di lotta fuori dalla distopia. Mercoledì prossimo, vi accennavamo, Pat in studio, non sappiamo se durante 25 o'clock, che è più probabile, oppure se riusciremo a fare la prima, la intervista per la presentazione di Monostereo con Pat. Per chi non verrà sotto le Bibbie, l'augurio del 2020 di lotta glielo facciamo da qui, da questi microfoni, anche da remoto. Bella a tutte e a tutte, noi ci risentiamo l'anno nuovo. Bella, dai! I'll share our dreams under a communist moon.